dai nudi piedini le vesti a brandelli, guardava i gioielli in un gran magazzino. Sparuta e tremante pel crudo rigore, quando ecco un signore le dice vicino: un ciondolo d'oro è pronto piccina per te, qual giusto compenso di un'ora d'amore, di un'ora d'amore per me. Voltando il visino perplessa esitante, al furbo galante non seppe negar. Due passi affrettati, l'antre di un villino, un gaio stanzino, astuzia e umiltà. Un ciondolo d'oro è pronto piccina per te, qual giusto compenso di un'ora d'amore, di un'ora d'amore per me. Dopo un'ora col ciondol donato, lo sguardo offuscato, sul viso il rossore. Le parve la gente ridesse d'incanto, scoppiando in un pianto quel ciondol gettò. Vil ciondolo d'oro, perché mi illudesti così? Per te ho dato tutto, perduto il mio onore, per te dissi a un vile Dio.